Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. La trasmissione che ormai da oltre un anno, come sapete, ci accompagna quotidianamente la mattina alle 6.45 e la sera in replica alle 20.45 dal lunedì al venerdì. Prima di partire con l'argomento odierno, due informazioni di servizio. La prima, la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Mi raccomando, segnalateci casi, sì personali, ma che possano coinvolgere tante persone, altrimenti non potremo trattarli. La seconda informazione di servizio è il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, giornale del quale sono inviato, http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Oggi affrontiamo un caso davvero interessante. Parliamo di Orte. Orte, per chi non lo sapesse, ma credo che mezza Italia sappia perfettamente dov'è, è uno snodo vitale, una cittadina che ha un casello autostradale che si trova, diciamo così, al confine tra tre province: la provincia di Viterbo, la provincia di Roma e la provincia di Terni. Ogni giorno da questa stazione ferroviaria, ma anche dal casello autostradale, entrano ed escono, partono e arrivano decine di migliaia di persone. Moltissimi umbri che lavorano a Roma, moltissimi viterbesi che lavorano a Roma, o viceversa magari, romani che lavorano in Umbria o che lavorano a Viterbo. Ebbene, onore al merito, l'amministrazione comunale di Orte ha costruito un mega parcheggio, un parcheggio da 800 posti collegato alla stazione ferroviaria. Però accade una cosa particolare, ce la racconterà personalmente il radioascoltatore che ci ha segnalato la vicenda, che si chiama Fabio Sabatini. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Allora, buongiorno. Che cosa succede tutti i giorni a Orte? Come diceva giustamente lei, Orte raccoglie un bacino d'utenza piuttosto grande di pendolari, di studenti che per vari motivi lasciano la macchina ad Orte e raggiungono Roma con la linea ferroviaria. Tra questi ci sono io e c'è questo parcheggio adiacente alla stazione di 800 posti, appena portato da 800 posti, insomma, nel quale però c'è un problema, c'è un parcheggio a pagamento, la tariffa di un euro al giorno non è neanche troppo elevata per la verità, però comunque in questo famoso parcheggio non c'è la possibilità di invece lasciare la macchina in un parcheggio libero senza pagamento di pedaggio. Cioè lei in buona sostanza dice: io ci sto anche a pagare un euro, concordo con lei assolutamente, è una cifra davvero bassa, suppongo che poi ci saranno anche delle forme di abbonamento, però io ricordo, lei ci scrive, che una sentenza della Corte di Cassazione, poi è intervenuto anche il TAR Lazio, dice che cosa? Lo ricordi lei? Dice che non si può istituire un'area di parcheggio a pagamento senza prevedere nella stessa zona un'altra area adeguata, con un numero di posti adeguato e senza parcheggio a pagamento. Ecco, quindi lei dice: io ci sto. Il parcheggio è interamente a esatto. pagamento. Questo secondo lei non con le norme del codice della strada che invece autorizzano il comune o i vari enti a istituire ecco. parcheggi blu. Quindi lei giustamente dice: mi va bene a pagamento, però ci devono essere anche dei posti liberi dove chi prima arriva probabilmente meglio alloggia, ma almeno si salvano forma e sostanza. A lei questo discorso non piace perché i parcheggi liberi mancano, e allora che cosa sta facendo ormai da mesi? A chi si rivolge? Io ho preso una multa veramente per errore, perché ho messo male il tagliandino, giustamente il vigile che è passato non si leggeva il tagliandino, mi ha fatto una multa, però sapendo di questa norma del codice della strada ho colto l'occasione per fare un ricorso al giudice di pace, ricorso che ho vinto malgrado ci fosse l'opposizione da parte del comune di Orte, proprio sulla base di questa mancanza di posti gratuiti. Allora è diventato uno sketch, lei continua a parcheggiare la macchina, i vigili continuano a multarla, lei continua a non pagare e a rivolgersi al giudice di pace. Al giorno il giudice di pace continua a darle ragione. L'ultimo un'ultima udienza c'è stata solo pochi giorni fa, dove in un colpo solo ho annullato 8 multe che erano le ultime, arrivano a blocchi. Ecco, faccio allora, tutte le volte questa procedura, però questa insomma è una cosa un pochino pesante. Assolutamente perché... pesante, è diventato un braccio di ferro, io direi un braccio di ferro, non tra lei e l'amministrazione comunale di Ortere, che suppongo che lei neppure conosca personalmente, né il sindaco, né la giunta, né i consiglieri, giusto? L'ho cercato di avvisarlo via mail, scrivendo anche al... comandante della polizia locale, dal quale ho avuto delle risposte, però di persona non lo conosco. Ecco, quindi non è un braccio magari... per salutarlo. No, no. Sì, certo. Ecco, certo. Ma infatti stavo dicendo proprio questo, non è un braccio di ferro, è come dire un principio di legalità. Allora, abbiamo sentito la voce di un nostro radioascoltatore che rappresenta ovviamente migliaia di voci che non possiamo ascoltare, di persone che si trovano nella sua stessa situazione, chissà in quanti altri parcheggi oltretutto, in analoghe situazioni in tutta Italia. E ora ascoltiamo la voce del primo cittadino di Orte, Dino Primieri. Buongiorno Primieri. Buongiorno. Allora, i vostri vigili continuano a tassare, a fare le multe e il nostro radioascoltatore continua a non pagare. Come stanno le cose? Ci racconti un po' come arrivare, diciamo così, ad una soluzione pacifica. Ma guardi, la soluzione pacifica, noi la nostra giunta si è insediata nel 2004. Fino al 2004 non esisteva alcun parcheggio, esisteva un parcheggio sterrato pieno di buche, di pozzanghere, dove veramente passeggiare, andare la mattina a Roma sul treno, vedere questi pendolari con le scarpe, soprattutto nel periodo invernale, con le scarpe infangate, bagnate, era veramente avvilente. Noi abbiamo impegnati e abbiamo costruito immediatamente di un primo lotto e successivamente l'abbiamo ampliato. L'abbiamo ampliato con il secondo lotto che è stato ultimato nel mese di giugno. Noi abbiamo fatto moltissime considerazioni su questo parcheggio. Sappiamo perfettamente che chi va già a lavorare a Roma ha il prezzo del biglietto, al costo della macchina per arrivare ad Orte, ma noi non possiamo come cittadina permetterci il lusso di spendere soldi, seppur pubblici una parte. Però Primieri, mi scusi, ma il giudice di pace in ogni caso mi sembra che vi dia sistematicamente torto, e poi se mi posso consentire, e voi una a spesa l'affrontate lo stesso, che ogni volta affrontare una spesa in giudizio, resistere in giudizio vuol dire impiegare persone, vuol dire perdere tempo, eccetera eccetera. Le chiedo, non sarebbe più logico venire incontro alla sentenza della Corte di Cassazione e prevedere un numero di parcheggi liberi? Questo secondo me potrebbe salvare capre e cavoli e non vi esporrebbe forse a centinaia di ricorsi, perché se ci stanno ascoltando ancora persone pendolari che prendono proprio nella vostra stazione ferroviaria il treno, magari oggi soltanto uno il ricorso, domani potrebbero essere migliaia. All'interno della stazione ferroviaria ci sono dei posti liberi che possono accedere soltanto alcune persone. Allora non sono liberi. Beh, lo so, ho capito, però le ferrovie non vogliono sapere nulla di quello che è all'esterno. Certo. All'interno però ci sono altri circa 500-600 posti di cui parecchi pendolari entrano. Come entrano, questo bisognerebbe chiedere alle ferrovie. Noi abbiamo coinvolto più spesso le ferrovie per cercare di farli presente che la nostra collettività ortana non può accollarsi tutto quell'onere di spesa, perché noi abbiamo la manutenzione, abbiamo l'acqua, abbiamo la luce, abbiamo una cooperativa sociale che gestisce questo parcheggio, che controlla, da un minimo di controllo, perché se non c'è un minimo di controllo voi sa perfettamente quello che succede. Certo, certo, certo. Ma quindi voi continuerete così, voglio dire, voi continuerete... Ma noi abbiamo parlato con il giudice di pace, sì. Ci stiamo attivando, perché noi all'interno della stazione, all'interno del centro abitato di Orte, abbiamo una piazza che, seppur a disco orario, ha dei posti liberi. Ecco, però questi posti liberi effettivamente sono ad orario, e una persona che parte, va a Roma, sa quando va, sa quando parte, difficilmente sa quando torna, per colpa anche e soprattutto dei ritardi che si accumulano nei mezzi di locomozione. Quindi anche la situazione a tariffa oraria mi sembra un po' scomoda per i pendolari. Lo so, ma guardi che noi abbiamo noi come collettività ortana sopportiamo un prezzo non indifferente, perché se lei considera che noi abbiamo dovuto rinforzare in quell'area i cassonetti della ricchezza urbana, perché ci provengono da altre province, da altre certo, comuni, i rifiuti, chiaro. Anche rifiuti, certo, quindi per certo. Noi è un costo, e quindi non credo che un euro al giorno, io sfido a trovare un altro paese, io vado spesso a lavorare a Viterbo, no, però vede, quindi a Roma, e trovo situazioni analoghe. Vede Primieri, credo che tutti siamo d'accordo sulla tariffa bassa, però lei lo sa che se in Italia c'è, come dire, una norma legale, una sentenza alla quale appellarsi, beh, il cittadino tutto sommato ci si appella. Noi abbiamo fatto un'ordinanza, adesso, recentemente, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 285, che la suddetta zona, avendo le caratteristiche di legge come individuare un'area di particolare rilevanza urbanistica, sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico veicolare. Quindi questa c'è stata richiesta, suggerita proprio dal giudice di pace per cercare ho capito, quindi di risolvere questo problema. Quindi con il giudice di pace voi avete avuto un colloquio in maniera tale da poter legittimare totalmente quello che state facendo, vale a dire un parcheggio a pagamento. Comunque sia, se noi creiamo un certo numero di parcheggi liberi, saranno sempre pochi rispetto al grosso mole di traffico. Al grosso flusso che c'è quotidianamente, su questo lei ha ragione. Purtroppo il tempo a nostra disposizione si avvia a conclusione. Io ringrazio il sindaco Primieri per aver con noi parlato di questo problema che vivono migliaia di pendolari che ogni mattina partono da Orte per raggiungere Roma o viceversa. Grazie al radioascoltatore Fabio Sabatini, al quale dico che continueremo a tenere monitorata la situazione, quindi torneremo nei prossimi mesi su questa questione per vedere come si è conclusa. Grazie regia Giacomo Spunta, e in studio Laura Faggina, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.